se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina dobbiamo dare corpo a una sottile, meliflua e pericolosa tendenza che sta serpeggiando nel nostro territorio nazionale. È il ritorno di fiamma della cafonaggine. Non è che ci siamo mai arresi, ci siamo mai fermati di fronte al progredire del nostro essere cafoni nazionali. Poi ci sono dei fenomeni nuovi, ci sono delle segnalazioni da fare, insomma, c'è del nuovo e della tendenza da sottolineare nella possibilità di essere cafoni. L'episodio di cronaca da cui partiamo e da cui prendiamo lo spunto ha appassionato le cronache dei giornali negli ultimi giorni e lascia ancora un punto interrogativo sui responsabili di questo efferato gesto. Sto parlando dei terroristi anti-SUV. In alcune città italiane, in particolare nel nord Italia, in particolare a Milano, si cominciano a trovare grossi, meravigliosi, mastodontici SUV con le ruote sgonfie. Pare sia un movimento fantecologista che attraversa tutta l'Europa, che vorrebbe ristabilire l'ossigeno mancante nella nostra atmosfera, bruciato dalle emissioni di CO2, appunto determinate dai potenti, roboanti e meravigliosi motori dei SUV. Quindi per recuperare aria sgonfiano le gomme. Pare che in Francia ci siano dei gruppi molto più specializzati e che hanno delle bombolette per riuscire a sgonfiare velocemente i pneumatici dei SUV. Da noi molto più facilmente, molto più banalmente, prendono e squarciano le gomme, così lasciano subito uscire l'aria. Dietro questo gesto si racchiude una nostra nazionale predisposizione a voler contrastare un fenomeno con le stesse armi, gli stessi sistemi che hanno generato questo fenomeno. Per parlare questa mattina di questa meravigliosa e irrazionale popolare maniera di rivedere e rivisitare la cafonaggine ho l'amico e collega Luca Mastrantonio. Luca, buongiorno. Buongiorno. Ricordo che Luca è autore, insieme a Francesco Bonami, dell'Irrazionale Popolare, appunto da Bocelli ai SUV, Viaggio tra gli incomprensibili miracoli d'Italia, editore Einaudi. Quindi il SUV era già entrato nella tua prima rassegna dell'Irrazionale Popolare, che non è esattamente la cafonaggine, ma una sua lettura più colta. Sì, anche esasperata e anche più diffusa, perché obliqua nell'idea di cafonaggine c'è sempre un retaggio sociale che invece nell'irrazionale popolare non c'è. Sì, era ovviamente entrato in maniera prepotente, come nelle pubblicità, con queste ruote rampanti, però appunto adesso ci sono già delle reazioni opposte, in fondo simmetriche, anche queste molto irrazionali, perché mentre descrivevi appunto questi grandi quasi degli elefanti, con l'immagine quasi di gambizzarli, di appunto ferirne le ruote. Ci dicevamo prima, Luca, in fondo il taglio della gomma del SUV è simmetrico rispetto al cafonissimo gesto di disprezzo di rigare lo sportello della macchina con la chiave. Con la chiave, che è un uso improprio di qualcosa, appunto, la chiave che dovrebbe aprire le macchine, riga la fiancata, quindi c'è una totale simmetria di armi non convenzionali. Vuol dire che questo gesto di disprezzo e di effrazione nel territorio nemico, che va a violare quanto di più sacro, è la profanazione del sancta sanctorum del proprio avversario momentaneo, è anche molto diffuso nel mondo femminile, anche le cafone milanesi dalle gambe lucide. Poi, ecco, io fra gli accessori della cafoneria, su cui io convoco stamattina al pubblico, quindi chiamata all'800240024, segnalatemi le punte più avanzate della cafonaggine nazionale, ne individuo una che ho notato in questi giorni di mia permanenza milanese. Perché le donne milanesi hanno le gambe lucide, sembra che diano il coppale alle gambe, hanno le gambe lucidissime, di notte fanno luce propria, capito? Deve essere un problema dormire per i mariti, perché evidentemente devono anche coprirle. Dunque, io l'altra sera stavo in un ristorante, c'erano soltanto donne, tutte con le gambe lucide. Ho osato chiedere una cosa fosse, ma guardate come si guarda un totale ignorante, dice: ma è olio. vorrei saperne di più sull'olio per lucidare le gambe delle donne. Ma andando avanti con Luca, penso tu sia d'accordo su questo riusare la stessa arma della cafoneria per combattere un fenomeno cafone. Assolutamente sì, e quindi, come dire, si finisce sullo stesso piano, ma appunto c'è un'idea panica di irrazionale nel SUV, c'era questo rifugiarsi in questo mezzo che dà grande sicurezza rispetto all'apocalisse che anche in città ci potrebbe investire. Ecco, beh, insomma, assolutamente hai detto la parola terroristi, ma non per altro, perché devono seminare terrore e quindi assolutamente l'irrazionalità più nera. Ecco, noi questa mattina vogliamo proporre al nostro pubblico invece un'analisi tipo antropologico. Il SUV viene identificato in una sorta di mostro transformer in cui non è importante l'essere umano che lo muova, ma è la macchina in sé che ha una sua personalità, una sua anima. Chi ce l'ha con il SUV, ci sono dei gruppi su Facebook, macchina grande, pisello piccolo, per dare ancora un segno ulteriore del disprezzo antropologico, che poi è invidia per chi non può permettersi del SUV. Abbiamo voluto analizzare proprio antropologicamente il contenuto umano del SUV, quindi abbiamo Roberto, fanatico e fantastico possessore di un SUV, che per la prima volta, e questo devo dire che è un primato di cui vado fiero, diamo voce a un possessore di SUV che sembra una classe umana che non ha possibilità di dialogare con il mondo esterno, perché vi è sempre arroccata in questo suo meraviglioso castello, così duramente preso d'assalto in questo momento dalla barbarie giustizialista degli ecologisti dei tagliagomme. Io ho comprato il SUV perché lo aveva mio figlio, che giudicandola troppo appariscente, troppo inquinante, voleva venderla, ma non c'è riuscito, quindi l'ho taglieggiato e l'ho comprato al metà del suo valore, e mi trovo felice proprietario di un SUV. La cosa più bella del SUV è che mi ha ridato il piacere di andare piano, cosa che erano anni che non provavo. Raramente supero i limiti di velocità, perché è molto piacevole essere portati in giro da questo salotto. Sono contrario a quelli che fanno le manifestazioni anti-SUV. È vero che è inquinante, aspettiamo che facciano dei motori meno inquinanti, ma quando si è saliti una volta su un SUV è difficilissimo scendere. Luca Mastrantonio, cominciamo ad analizzare puntualmente la reazione del possessore di SUV. Ha usato il verbo taglieggiare. Come vedi, è nell'immaginario comune sia di chi possiede il SUV sia di chi attacca il SUV l'idea del taglio. In questo caso, la ferita. La ferita. In questo caso è addirittura una sorta di atto di usura nei confronti di un proprio consanguineo. Li costringe il figlio a vendergli il SUV, perché finalmente anche lui ha questa sorta di salotto viaggiante. Viaggia piano, il burino in sé in realtà non ha nulla a che fare con la lentezza, è frenetico. La chiave fondamentale della burineria è invadere lo spazio vitale altrui, invaderlo attraverso emissioni rumorose, emissioni olfattive, emissioni di espansione fisica e concreta. Il possessore del SUV, il signor Roberto, che noi a cui siamo molto grati per averci dato la sua testimonianza, naturalmente si è sottoposto a questa sua funzione di cavia e gliene siamo molto grati. Però il fatto che lui deve andare lento, come se stesse in salotto. Tutti noi lavoriamo, andiamo in macchina, usiamo miseramente i mezzi di trasporto come una necessità quotidiana per mantenerci e sostentarci la nostra esistenza. Lui sta in salotto. Mentre noi lavoriamo, lui è in salotto al centro delle nostre strade, davanti ai nostri semafori. Sì, questo ha detto due cose veramente appunto sorprendenti. Una, ci ha svelato, cioè non è il giovane rampante che vuole il SUV perché magari fa il suo effetto, perché ovviamente fa la sua... Ecco, diamo degli elementi. Il giovane rampante vuole, perché io ho già una documentazione di persone che mi hanno scritto su Facebook, alla cosiddetta testabile macchinetta o macchinina, che è quella macchina non automobile con il motore da ciclomotore, però perfettamente aggeggiata, che già in sé è una sorta di miracolo di cafoneria. Sì, forse è un trattato ambulante di cafoneria, perché se appunto Roberto vuole o trasferisce in una sorta di transfer l'idea della casa in questa grande macchina che va piano, lì c'è la cameretta. Appunto è l'invasione dello spazio pubblico con le proprie abitudini. Nella spiaggia noi lo vediamo nuda e cruda questa cosa, giocare a racchettoni, che sono le solite cose. Ecco, qui invece è più interessante perché quasi è mobile, ma è quasi immobiliare. Appunto abbiamo il salotto per Roberto e per tutti magari i nipoti o i figli o i ragazzi, queste macchinette che spesso riproducono anche nella tappezzeria. Ce ne sono alcune di ragazze rosa, fucsia, con i peluche da dietro che ti salutano, come se tu fossi entrato in una stanza per errore, apri una porta, ma qui c'era la cucina, no, questa è la stanza di Patty. Ecco, la stanza di Patty cammina con tutti gli I love you, i poster dentro dell'attore di turno, ed è incredibile perché è una sovversione dello spazio pubblico. È come il classico sogno fanciullesco che tutti avranno fatto, che immaginano e sognano di volare fuori dalla finestra di camera col proprio lettino, letto, e tutti l'abbiamo sognato, che il lettino vola come un'astronave e ci fermiamo nelle piazze. Pomidottone, manici di scopo. Esattamente, ecco, in questo caso è realizzato il sogno. Andiamo avanti con Roberto, possessore di SUV. Recentemente ho fatto il tagliando, ho cambiato le gomme, ho pagato l'assicurazione, ho detto porca miseria, ci compravo metà di una 126, però ho pagato e via. La tranquillità, la serenità, andare in giro, d'altra parte le statistiche dicono che in incidenti dove sono coinvolti SUV soltanto nel 10% il conducente del SUV ha riportato dei danni gravi. Io devo dire che la fantasia cafonal automobilistica non ha limiti. Fra le segnalazioni che mi stanno arrivando di cafoneria, la maggior parte delle segnalazioni riguardano l'accessoristica delle automobili. Dunque mi parlano di un dispositivo, un optional che si acquista insieme alle Porsche, mi hanno detto, che permette di fare il rumore dell'accelerata, non so come, in maniera artificiale. È molto usato quando si ha una donna a bordo nelle gallerie, dalla sgommata si sente questo rumore qua, e quindi questo funziona molto. Poi mi parlano di queste lucine azzurre che si piazzano sotto le macchine, che fanno una sagoma bluastra, come se fosse l'ologramma di Obi-Wan Kenobi della propria automobile. Credo ci sia anche Fast and Furious, il film su gare di velocità di macchine, che appunto avevano queste sagome colorate luminescenti, un po' come le gambe delle sciure che ricordavi prima, ma qui ovviamente siamo ad una fluorescenza che potrebbe... Posso rifare l'appello 800240024, vi prego, datemi l'esatta formula del lucida gambe delle signore milanesi. Andiamo avanti, è l'ultima tranche, poi passiamo alle nostre telefonate che già stanno lì in attesa fremente, di Roberto, possessore felice di SUV. Sempre avuto delle auto sportive piuttosto cattive, con le quali però mi stressavo, mentre con il SUV mi è cambiata la qualità di vita, proprio perché è una macchina molto ingombrante, molto fastidiosa. Cerco di dare il meno possibile fastidio agli altri, quindi lascio passare gli incroci, mi fermo prima, se c'è una strettoia mi fermo, faccio passare gli altri. Non so esattamente che effetto faccia il SUV sulle donne, perché non credo che oggi comunque quell'auto aiuti a rimorchiare, come si dice in gergo, non lo credo. Marina da Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei si lascia rimorchiare da possessore di SUV? Per carità di Dio, io ho un'idiosincrasia contro i SUV, non dico i loro possessori, perché per carità, ognuno fa le sue scelte. Però vede che anche lei identifica la macchina come se fosse una monade semovente, pseudumana. Guardi, dentro c'è un essere umano nel SUV. Sì, ok. Beh, chi li compra, io ho un giudizio negativo su chi li compra, ma me lo tengo per me, perché dico c'è libertà e faccia quello che vuole, però il mio giudizio chiaramente è negativo. Intanto, io non so mai dove parcheggiare la mia piccola pandetta, perché i SUV portano via almeno due posti. Tranquilli, tranquillo, già questo. Guardi, io non vorrei ricalcare un luogo comune, ma anche le signore con le piccole pandette molte volte sono dei pericoli pubblici ambulanti. Lo so, ma qui si parla del SUV, dell'ingombro, del fastidio che danno. E dopo il signor Roberto, a cui faccio tanto di cappello per il modo come si comporta con il suo SUV, ma è una mosca bianca, perché qui nel Trevigiano corrono, che Dio ti raccomando, non è vero che vanno ad agio, che lasciano passare, sono un pericolo pubblico. E dopo, guardi, io sono d'accordo, le dico l'ultima, con l'ex sindaco di Londra, Ken Livingstone, se ricordo bene il nome, che li aveva definiti i Chelsea Tractor. Bellissima, bellissima, bellissima definizione, che la dice tutta. E io sono d'accordo con l'ex sindaco di Londra su questo. ma li posso soffrire, non so se si è capito. Ma lei monterebbe mai, salirebbe mai su un SUV se invitata? Oh mio Dio, no, perché io, guardi, sono contro ogni radicalismo di solito, questa presa di posizione, anche a me non è che mi facciano impazzire, dico la sincera verità, però questa radicale avversione mi sembra un atteggiamento molto radical chic che in sé, essendo ormai fuori del tempo in cui si è prodotto felicemente questa visione della vita, lo trovo molto burino. Luca, sei d'accordo? Beh, insomma, è come quello che per riprendere un atteggiamento cafone a volte può fare una cafoneria, il discorso di rigare la macchina o tagliare le gomme per farsene giustizia. Il problema è essenzialmente se abbiamo ogni tanto voglia di guardare chi c'è dentro quello sportello. Abbiamo avuto un outing importante, cioè abbiamo capito che non solo c'è un essere umano, ma c'è un essere umano spaventato dentro su. Gianluca da Siena, buongiorno. Buongiorno. Lei non mi sembra spaventato. No, no, io sono spaventato dalle pandine, a dire la verità, perché sono pericoli pubblici più dei SUV, ma a parte la battuta, cioè, io ho la sensazione che, tra l'altro, dalle parti nostre c'è chi i SUV li brucia, non solo si limita a sgonfiare le gomme, che sarebbe già al limite, insomma, più rimediabile. Ah, quindi c'è un'escalation di violenza nei confronti dei SUV? Sì, c'è stato un periodo in cui proprio li bruciavano, insomma, per cui non capisco io questa gente, si vede non c'è niente di meglio da fare tutto il giorno. Io il SUV francamente l'ho comprato per due motivi, primo perché faccio un lavoro che mi porta a viaggiare e faccio 70-80 mila chilometri l'anno, per cui siccome ci vivo nella macchina ho anche bisogno di starci perlomeno sicuro, insomma, e poi appunto perché la sicurezza, trovandomi sulla strada giorno e notte spesso per lavoro, francamente gli do un valore importante. Potrei comprarmi una macchina più piccola, però insomma, ripeto, ce l'ho avute, ormai ce l'ho avute tante, e questa, come ha detto Roberto, quando ci sali non ci scendi più. Poi è vero, c'è chi compra il SUV per fare 3 km al giorno per portare bambini a scuola, ma sinceramente lì è più uno status simbolo. Io l'ho fatto più una questione di necessità. Ecco, lei Roberto, scusi Gianluca, ha messo il punto su una necessaria suddivisione del fenomeno. Non possiamo generalizzare in possessori di SUV, ma esistono varie categorie. Né nell'ambita un'altra, di cui invece vuole farci ampia descrizione, Agnese da Roma. Agnese da Roma, buongiorno. Buongiorno. Lei vuole parlarci della mamma SUV. Sì, devo dire che io amo molto i SUV, li vedo bellissimi, se potessi comprarmelo, fare un viaggio in SUV sicuramente sarebbe sostitutivo del Quindi viaggio lei sarebbe disposta, della giovinezza che si pensava. Sarebbe disposta anche al cedimento carnale per un possessore di SUV? Scusi la crudezza della domanda. No, soltanto di moto, in quel caso solo uno che guidi una moto. Ah, per la moto sì. Si concederebbe? Nonostante l'età avanzata amo più i guidatori di moto. Okay. Invece, purtroppo, abitando di fronte a una scuola, in una piazzetta molto carina di Roma, anche se è stata un po' rovinata da un parcheggio, e contesto le mamme SUV, che appunto, come il signore precedente diceva, accompagnano i figli in SUV a scuola. E sono veramente prepotenti, perché si mettono sulle strisce, si mettono in seconda fila, vanno a fare conversazioni. Scusi, sono un po' emozionata. Si controlli, capisco, no. L'argomento può muovere delle profonde leve dell'emozione. Quotidiano, cioè uscire No, l'è mozzata per l'odio di queste squinternate sue colleghe. L'ho escluso dalla mia vita perché proprio mi rovinerebbe prima di tutto me, e quindi non esiste. Quindi la mamma SUV in teoria è per piccolo di porto, da accompagnare i bambini a scuola, lei può immaginare che qual è questa piazzetta, per sapere? È una piazzettina, piazza Volsinio, che sta di fronte a un parco, era una piazza per me la più bella del mondo, ma purtroppo è intervenuto il comune anni fa a ridurla ad una specie di via, ma a parte questo c'è una bella scuola, c'è il parco. È diventato un parcheggio dei SUV. Parcheggio momento. Purtroppo sì. E allora queste mamme SUV che prendono, montano in macchina, accompagnano il bambino di 8 anni, dove tutti vanno a piedi, insomma, a accompagnare il bambino alla scuola elementare, perché è vicina, e mi sembrano veramente un po' fuori dal mondo. Accompagnato il bambino, poi dove vanno a finire? Ritornano a casa o lo lasciano in garage? Si trattengono un po' con le altre mamme, non necessariamente SUV, le altre, a parlare, ignorando che sono in seconda fila, che sono sulle strisce e sono inamovibili proprio per camminare. Senta Agnese, le posso fare un paio di domande tecniche, visto che approfitto della sua competenza? Mi segnalano fra le cafonaggini i bambini con i capelli rasati con il lungo codino. Mi sembra una cosa un po' vecchia, esiste ancora? Questo non lo so, non l'ho visti veramente. Beh, sì, i bambini mi sembrano simpaticissimi. No, i figli della mamma SUV della hanno mamma dei SUV sono bambini normali. Capelli a caschetto lunghi, naturalmente, biondissimi. Sì, sì, caschetto sì, sempre abbronzati. Piuttosto chic. Sempre abbronzati. Abbronzatini, ma anche pallidi. No, ma su questo non insisterei. Diciamo e vestono uguali ai padri, io li vedo spesso queste famiglie di figli SUV. Il padre in genere, il padre Volvo, quello è un altro, che è un tipo d'uomo che fa il corrispettivo della mamma SUV. E diciamo che la mamma SUV è proprio inutile. Inutile perché obiettivamente dovrebbe accompagnare il figlio a piedi o comunque con un autobus, perché diciamo crea soltanto è chiaro, è chiaro Agnese, la fermo perché sennò andiamo molto oltre. Siamo arrivati ad associare la più sacra e intoccabile delle figure del nostro bestiario nazionale, quella della mamma, inquinata da questo contatto, ahimè, fortemente erosivo della macchinona che non lascia spazio nemmeno alla sua pietà. Melog 2.0. Scusi, ma lei è Lillo Ferri? Sì, ci conosciamo. Ci conosciamo? Lei ha lavorato tantissimi anni con mio padre. Ma che sei, figlio di Lollo? Sì. E tu come ti chiami? Lello. Mazza che fantasia. E come sta Lollo, papà? Se saputo più niente. Se ne è scappato una ballerina di lap dance. E si è fatto più vivo. Solo una volta a casa, invece di una cartolina, ci è arrivato un perizoma. E quello è sempre stato fissato con i mignotti. Mi ricordo che nei tempi nostri stava in fissa con una certa Ines, un baldraccone, ce la siamo trombata in 2000. Mamma! Ah, la mamma. E come sta, come sta? È morta di parto. Che cazzo, ammazza che sfiga. Comunque, a nome dell'antica amicizia che mi lega tuo padre e anche la povera mamma, qualsiasi cosa hai bisogno, ecco, intanto, te, compra dei due cheeseburger che ti avete maciato, eh? Ma come fai l'elemosina? Ah, te vergogna, mo sono ricco sfondato, ma una volta ero uno sfigato come te, sai. Queste sono le radicalizzazioni dei film panettonici che vanno sotto Natale. Questo è un film di Vanzina, una delle tante vacanze, mi sembra Natale a New York 2006, che dà un'immagine esasperata del cafone, mettendo in luce il cafone turpiloque romano, che è un genere che non è detto che sia diffuso a tutte le latitudini, ma è facile trovarlo nella sua massima espansione sonora nei luoghi di vacanze. Dunque, ho in studio Luca Mastrantonio, esperto in Irrazional Popolare, che è la versione colta e riflessiva della cafonaggio, della burineria, da Bocelli e SUV, Viaggio tra gli incomprensibili miracoli d'Italia, scritto con Francesco Bonanni, editore Einaudi. Allora, Luca Mastrantonio, ti leggo qualche messaggio che mi è arrivato su Facebook. Innanzitutto mi parlano delle condizioni abitative del cafone, però c'è qualcosa di arcaico che non capisco bene. Dice, dalle mie parti, dice Raffaella, è in voga trasformare la cantina in abitazione, bagno, soggiorno, cucina, camera da letto e viverci a stretto contatto di radon, che è il gas emesso dal tufo, lasciando i piani superiori arredati ma disabitati alla meraviglia degli ospiti. Mi sembra più un'operazione da arcaica provincia italiana dopo guerra questa. Sì, no, poi sembra anche uno scherzo, cioè forse uno poi invita gli amici, vedono la casa vuota ed emettono strani suoni. E io ho dei parenti in Puglia e mi ricordo che d'estate, attorno ad agosto, si emigrava ai piani inferiori dove c'era questa frescura, credo appunto derivata da tufo e queste cantine dove magari conservavano alimenti e altre cose, ed è un po' impressionante. E lasciano intonsa la parte alta della casa. Disabitata. Peggio sì. È se l'hanno abbandonata mentre la stavano vivendo e poi decidono di trasferirsi, quindi sì, magari anche con le posate. Però non sono molto d'accordo e faccio parte degli usicafoni. Questo è un retaggio del passaggio dall'Italia rurale all'Italia industrializzata, forse, soprattutto americanizzata. Nel senso etimologico di Italica Fun, cioè come dire, sì, coloro che abitavano. Erano quelli che lasciavano il cellophane sulle sedie del salotto buono per non rovinarle, tanto per far capire. Hola, io faccio outing, ho comprato un notebook e ancora non ho tolto la pellicola dallo schermo. Perché così la nemmeno io la tolgo. Ecco, sulla tecnologia c'è molto da dire. Mi viene suggerito il colore bianco come il nuovo colore dell'automobile dei cafoni. Il bianco è il bianco delle cuffiette, dell'iPod, e il bianco è il bianco di tutti i computer della linea Apple, e anche i computer dei morti di fame come noi che li comprano a 300 euro, li fanno bianchi, che da lontano somigliano a quelli. E su questo color bianco? Beh sì, tra l'altro è proprio un tempo c'era un vestiario, penso Cafonal Chic, che si diceva mi vesto tecnico, cioè mi compro la giacca da velista, anche se in realtà giro per Milano, perché era oggettivamente cose anche molto buone e tecniche, davano sempre l'impressione che poi andava in barca. Ecco, l'idea è che adesso il tecnico sia proprio il tecnologico, che qualsiasi cosa è bianco, è più smart e soprattutto è fantascientifico. Adesso dalla astronave di 2001 Odissea nello spazio a Star Trek, nella fantascienza, quindi è un proiettarsi anche nel futuro, è un modo per essere assolutamente contemporanei. E tu mi dicevi, Luca, prima, tu che hai visto il Cafone umettarsi il dito indice prima di scorrere le icone delle applicazioni del proprio iPhone. Sì, tra l'altro rovini tutto lo schermo. In pantana, però credo che sia anche derivato dal fatto che adesso vendono queste custodie degli iPod, degli iPhone, e la gente, ma io stesso, una sorta di preservativo. C'è la pellicola trasparente che non si capisce come si ferma davanti allo screen, e lì temo che io non ne sono un possessore, ma ho visto che in realtà unguettavano appunto il video per creare un minimo di tensione tra la pellicola trasparente e lo screen dell'iPod, quindi un gesto cafonissimo su una cosa ipertecnologica. Poi Lisa mi dice: cafoni sono uomini super accessoriati, catenine, orecchini, bracciali, fascette, cappellini. Il cappellino americano da baseball che viene messo con il primo fu il Giovanotti, disse come la mia moto di anni fa. Sì, ma lo mette, non so, anche un direttore della Rai saccagira sempre questo cappellino, un signore di una certa età. Che fa molto famiglia nordamericana che va alla partita di baseball con i figli. No? Dunque, poi altre cose, con marche e caratteri cubitali sui vestiti, l'abbruzzatura tutto l'anno. Poi, dunque, vediamo un po', suonare clacson nei centri abitati, ignorare stati di debolezza altrui, donne incinte, anziani, per stare con i propri culi comodamente seduti sui mezzi pubblici, se nessuno si alza più in piedi negli auto. I ragazzi impossibili, però questo è da vecchietta, non sono più giovani. Da signora mia, però c'è una cosa nuova che è l'inibizione, cioè che quando ti viene in un rigurgito di buoni sentimenti, la tentazione, devi superare l'inibizione degli altri, che in realtà ti prendono come il boy scout che chissà forse ha avuto un'infanzia troppo felice. Io uno dei momenti più traumatici della mia vita, 3 anni fa, quando una ragazza mi cedette il posto nell'autobus e ho cominciato a pensare che gli anni passano anche per me. Ah, adesso un altro punto su cui ti voglio scoprire. Very Cafonal, dice Giuseppe, il calzino bianco, il cotone di spugna che spunta inopportuno sotto il pantalone elegante. E io ho visto un ragazzo abbronzato ieri che corteggiava queste signore delle gambe lucide, che aveva il fantasmino che fuoriusciva dal mocassino. Trovo siano le cose terribili. Tu hai dei pantaloni color vinaccia e delle scarpe arancioni. Sì, io ho fatto questa cafonata cioè ho messo un tono sbagliato su un tono simile. Ho delle scarpe. Sì, io ho le scarpe arancioni con i pantaloni rossi, ma tu hai una camicia a righe viola. Che, insomma... Sì, viola poi il colore dei burini in questo momento. Guarda i calzini. E poi lo rimandi ai calzini, come a dire, io ho una scusa, che è così pacchiano il mio errore che posso dire l'ho fatto con distrazione. Tu hai un richiamo, però ci vuole un bel coraggio vestirsi ancora di viola quando mai tutte le vetrine di Via del Corso a Roma sono viola, tutto, dalle mutande al calzino. Sì, l'abbinamento viola mi piace, devo dire, mi crogiolo volentieri nella cafonaggia. Antonio da Roma, buongiorno. Sono anch'io d'accordo che ci sono eccessi, cafonaggi. Io poi, per quanto riguarda il colore, lei parlava del colore, identifico ancora il nero insieme a questo Il total black. Cioè il vestito nero con la maglietta a girocollo sotto. Ecco, se poi c'è un pitbull nel giardino della persona fa tutt'uno. Vabbè, quello è uno spacciatore, è un pusher, è uno spacciatore di droga. Ma a volte neanche sì, sono d'accordo. Però devo dire una cosa, parlando con gli amici, essendo in macchina con amici, non ho il SUV, eccetera, eccetera. Io noto che comunque c'è una componente di invidia anche da parte di chi non ce l'ha. Assolutamente, verissimo, certo. Perché qui vedo che insomma si critica a volte quello che si vorrebbe avere e non si può avere. Lei ha ragione, ma sentiamo Giacomo. Giacomo è un SUVista pentito. Lei si è riuscito a liberare dalla sua dipendenza e adesso senza SUV. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Allora, dica esattamente quali erano le radici della sua dipendenza. Allora, cosa gliel'ha fatto fare? Circa 2 anni fa, avendo più disponibilità economiche, perché lavorando ho avuto... E non c'era la crisi del 2009? Esatto. E anch'io ho ceduto alla tentazione del SUV, quindi ho acquistato un gran bel SUV di 5 metri e mezzo di lunghezza, di 2 tonnellate di peso. Poi nero, perché il SUV, i maschi devono averlo nero, le femmine possono permetterselo bianco o metallizzato. Ah, il SUV bianco è da donna, è un accessorio femminile. Sì. Invece l'uomo deve essere più colorato come un Panzer tedesco, ecco, mettiamo. Quindi il nero e il metallizzato scuro credo sia, sia il colore preferito. Canna di fucile si dice, mi sembra. Esatto, esatto. Bene, io 2 anni fa lo acquistai e lì sono nati i miei problemi. Sono nati i miei problemi perché non pensavo che dopo pochi giorni avessi il mal di mare cronico, perché i SUV sono molto alti, sono, hanno tecnicamente parlando si dice un rollio in curva, quindi ondeggiano, galleggiano, non sono così stabili come le berline ad esempio. Ecco, nessuno ha mai parlato con così tanto coraggio di quello che poi in realtà è il malessere, il logorio fisico del possessore, è una dipendenza che in realtà mina il fisico. Sì, io dopo 10.000-15.000 chilometri non ne potevo più di viaggiare, lavorare, andare a divertirmi con il coito del vomito, quindi mollai tutto anche per un altro motivo. I miei clienti, vedendomi passare da una berlina normale a un SUV, avevano mangiato la foglia e quindi volevano più sconti, volevano più offerte, volevano più... è stata una sciagura anche per il mio lavoro. Cioè si approfittavano di lei vedendola in quelle condizioni di dipendenza estrema? Quindi... No, diciamo avevano capito che avevo fatto un po' più soldi e quindi per mia imprudenza quella carta lì, giocandola col SUV, sì, forse qualche donna in più l'ho conquistata, ma ecco, lavoro, ma corrisponde a realtà o è leggendario il fatto che il SUV sia irresistibile? Forse per una certa categoria di donne, le donne dalle gambe lucide probabilmente salgono soltanto su SUV. No, indubbiamente. Forse le donne snob dicono nella buona società che sono odiosi le persone che hanno il SUV, ma sotto sotto... Una volta dentro non si esce più vivi. Sì, sì, però io immagino, e sono sicuro perché non credo, io sono una persona di 36 anni, di sana e robusta costituzione, io sono convinto, non ho la prova scientifica, che un possessore su 3 di SUV ha il mio malessere, ovvero ha il mal di mare, però forse la vanità è più forte di questo malessere e sopporta. Non lo dico, è come le donne che si rifanno le tette non dicono che è come averci 2 palle di polistirolo attaccate alla cassa toracica, non lo dico, stanno lì, si ingultano ogni volta che uno le sfiora, ma in realtà hanno 2 masse amorfe. Luca Mastrantonio. No, sono ammirato da questo, finalmente con un piede di porco siamo entrati un po' dentro questo oggetto che l'ascoltatore descriveva come una barca, ci ha dato la stazza, ci ha dato la lunghezza, ha parlato di rollio, quindi effettivamente oltre che un salotto è anche una barca da diporto, come ci diceva anche l'ascoltatrice pandista in precedenza, appunto, che può avere però degli effetti... Cioè, ti rendi conto però come... Nessuna donna ti ammetterà mai che camminare con il tacco 14 ti crea dei problemi vertigini, terrificanti, del mal di caviglie serale, cose dicendo. Poi non si dice mai, e come le nostre nonne mettevano il busto e morivano e svenivano e non lo dicevano. Nessuno ha mai detto che il SUV in realtà dà un malessere. Questo però è sorprendente, perché in realtà, secondo me, quello che di buono può esserci nella cafonaggine è il vivere rilassati, cioè il non preoccuparsi troppo di tutte le... paure, idiosincrasie che abbiamo. Ecco che se però un simbolo di cafonaggine diventa anche quello fonte in realtà di stress e di malessere, beh, allora effettivamente lo stile cafonesco ha anche degli effetti collaterali. Quindi siamo terribili. In attesa del riflusso del SUV. Melog 2.0. La notte romana si veste di dance anni 80 con una grande protagonista di quegli anni, Sabrina Salerno. Noi siamo qui in attesa che arrivi. È arrivata Sabrina Salerno, welcome, benvenuta a Roma. Grazie Barbara. Occhiali scuri e un cappotto verde smeraldo che ha nascosto solo per pochi minuti il suo statuario corpo. Sabrina ha appena finito di cantare, siamo nel suo camerino per scoprire come si sente appena subito dopo lo show. Mi sento sudata. Esistono tra i tanti tempi paralleli che ogni tanto ci viene voglia, desiderio di investigare, il tempo parallelo delle schedine o dei servizi fatti ai VIP nei programmi televisivi pomeridiani. C'è sempre una grande apoteosi, sempre una meravigliosa apparizione delle epifanie, anche Sabrina Salerno, che ormai è un residuo delle nostre diottrie perdute di tanti anni fa, riappare improvvisamente e meravigliosamente anche in questi momenti. E questi hanno scandito i ritmi e anche i modelli estetici di questo tempo parallelo. E abbiamo una persona che è profondamente esperta di questo mondo parallelo, che è la nostra amica, chiamiamo spesso, Marianna Aprile, giornalista di Novella 2000. Marianna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tu mi avevi lasciato ieri su Facebook una lista di spunti meravigliosi riguardo alla cafonaggine. Vediamo se non ne sai sottolineare. Per mancanza di una vita parallela, perché sarebbe lunghissimo. Beh, cominciamo rispetto a quello che ci siamo già detti, soprattutto riguardo all'aspetto esteriore. Forse tu puoi dirmelo, essendo donna, vivendo a Milano e conoscendo da vicino l'ambiente più bisunto delle donne che contano, cosa si mettono le donne milanesi sulle gambe per farle lucide? Ma praticamente qualsiasi cosa, compreso il fondotinta, ce ne sono di specifici. Come, il fondotinta per le gambe, lucido? Sì, ce ne sono di specifici per le gambe, cioè l'equivalente di quello che si mette sul viso. Ma è soltanto un ulteriore, l'ennesimo esempio del leitmotiv di ciò che caratterizza il cafone, cioè lo scimmiottare. Cioè le gambe a specchio, sei d'accordo che è una delle punte più avanzate della contemporanea cafonaggine femminile? Sì, solo se abbinata al tacco però, perché sennò fa solo unto. Marianna, altri punti legati al modo di vestirsi, di porsi, di... relazionarsi. Il cafonismo è assolutamente comportamentale più che di look, perché in questi casi spesso l'abito non fa il monaco, ci sono splendidi cafoni perfettamente mimetizzati con un abbigliamento sobrio ed elegante. Cioè il cafone vero è quello che, per esempio, ed è una cosa molto italica e molto romana, ahimè, quello di dare del tu o del dottore, indipendentemente dai meriti presunti o verificati, cioè sono tutti a capo, a dottor, oppure tutti tu, anche se, come dire, se anche quando ci sarebbe bisogno della distanza formale tra le due persone. È molto romana questa cosa, devo dire che però insomma è abbastanza epidemica, e quindi cioè, se ne trovano meravigliosi spunti anche al di fuori della capitale. E poi un altro come dire, minimo comune denominatore del cafone, indipendentemente dall'abbigliamento, è il totale abbattimento tra pubblico e privato. Cioè, se parlo al cellulare dei fatti più intimi, del mio disturbo più imbarazzante, lo faccio con un tono di voce da salotto, anche se sono in metropolitana. Io che questi ultimi mesi viaggio molto in treno, avendolo alternato all'aereo, che trovo quanto di più cafone, devo dire che è vero, si sentono delle lunghe conversazioni, ma veramente lunghe, in cui c'è una descrizione minuziosa di tutto. Si possono ricostruire generazioni intere, non vite, cioè delle famiglie. E poi un'altra cosa che fa abbastanza cafone è quello di considerare di default un VIP, un famoso, chiunque sia in grado di farti credere, per una sua dote innata o perché ha convinto il suo entourage più prossimo, di esserlo. L'anno scorso a Porto Cervo vedevo famigliole venute a Porto Cervo per la gita in giornata, ovviamente, perché dormire a Porto Cervo è una cosa riservata a pochi, che si facevano le foto davanti alla foto di Briatore. Le foto davanti alla foto, beh, è meraviglioso. Cioè, quello è, cioè questo tentativo di cercare una prossimità con chiunque si pensa essere al di sopra o al di là del proprio ristretto mondo e delle proprie ristrette possibilità è abbastanza cafone e anche, insomma, anche un po' triste. Diciamo c'è un retaggio rivisto alla luce della cafonaggine di antichi usi e di tradizioni religiose popolari, e toccare l'icona del santo, strusciarsi sul santino, quantità, certo. È una forma di partecipazione. Grazie Marianna Aprile. Beppe da Torino. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Esca con la sua classifica. Allora, la mia classifica, vabbè, allora, un appunto sui SUV. Io invece sono un fuoristradista convinto, ritengo che i SUV siano delle macchine molto più sicure delle macchine normali, non solo, anche per il solo fatto che siano più alte, quindi ti permettono una visuale migliore. Sul fatto del rollio è vero, però dalla mia parte si dice: se non sei capace, non comprartelo. perché insomma è ovvio che chi usa un SUV ci vogliono le palle, diciamo. Ma che palle, non è questione di palle, è questione che è un'altra guida, per cui se non sei capace comprati una pattina, se non c'è il fisico, però se non riesci a resistere. Ma anche prima non è questione di fisico, è questione di saper portare un'auto o non saper portare un'auto, molto semplice. Ah, quindi chi ha la nausea da SUV perché la guida male? Ma secondo me non lo so che problemi possa avere, evidentemente non lo so, cioè evidentemente era più affascinato dal fatto che potesse caricare più che utilizzare una bella autovettura, una macchina comoda che ti permette di andare un po' dovunque, e invece evidentemente il suo fine era più quello di farsi notare più che... Una battuta, perché leggo nella sua scheda Pinocchietto infradito in centro? Adesso ovviamente quello, poi una cosa della cafonaggine, prima di arrivare al Pinocchietto fare un appunto anche sulla questione del ristorante, quando tutti quanti, basta che ce ne sia uno che comincia a parlare di che ha cominciato a girare per il mondo, si scatena una guerra nucleare, perché poi tutti cominciano a millantare e giri intorno al globo, magari soltanto avendo fatto una settimana in un villaggio, non avendo mai neanche messo il naso fuori. E tutti dicono, io sono stato in Brasile, io sono stato in Marocco, io sono stato in Australia, ma se gli si chiede che faccia un australiano magari non sanno neanche dirtelo. Molto chiaro, Luca... L'ultima cosa sul Pinocchietto, se mi permettete. Sì. Allora, io direi che il must è il Pinocchietto con infradito in città. Maschile. 100 km dal mare. No, la cosa che sul giovane, diciamo, sul ragazzino non mi disturba granché, ma quando vedo un genitore con i figli, con il Pinocchietto e l'infradito, magari in centro a Milano. Dovrebbe intervenire il tribunale minorenne. Le forze dell'ordine, secondo me. Luca Mastrantonio, a battuta, siamo proprio in chiusura. Sì, che tutti gli elementi che ci hanno detto, dal tanga all'infradito, a appunto pubblico-privato, c'è questo... riduzione di qualsiasi diaframma tra privato e pubblico. E sul tanga, sul perizoma e furescia al pantalone meriterà un argomento di una trasmissione a parte. A lunedì. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.